24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:34 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua con 24 mattino fino alle 9. Il sondaggio di oggi allora è su questa benedetta pausa pranzo. La fate, non la fate, la togliereste, la abolireste per tornare un'ora prima a casa dal lavoro? Questa è la nostra domanda. Dovete votare su radio24.it, un po' in basso a destra trovate bianco nero, cliccate lì, entrate e votate. Per ora il 57% di voi non la abolirebbe. Ci sarà anche il ministro Rotondi che l'ha proposta alle 8:30 a parlarne, ha proposto di, non dico di abolirla, ma dice io non la faccio, è una perdita di tempo, vedremo, cercheremo di capire. Più avanti, ora la lettura dei giornali. In primo piano. È la finanziaria che indubbiamente catalizza l'attenzione di tutti i giornali, almeno nelle aperture. Finanziaria senza tagli fiscali, così apre il Sole 24 Ore. E poi una carrellata di titoli simili. Finanziaria, niente tagli all'IRAP per il Corriere. Saltano i tagli a IRPEF e IRAP per Repubblica. Niente tagli a IRAP e IRPEF per la Stampa. Il Libero, tasse e Silvio non ci dà un taglio. Insomma, le aperture sono tutte legate a questo. Vedo proprio dal Sole 24 Ore, Marco Rogari a pagina 3. Saltano i tagli di IRPEF, IRAP e affitti, niente taglio dell'IRAP, neppure in formato mini dell'IRPEF per le famiglie numerose, nessuna cedolare secca per gli affitti. Queste sostanzialmente sono le vie del rilancio in finanziaria. 4 miliardi di gettito dello scudo fiscale che saranno utilizzati per inserire in finanziaria nuovi interventi mirati su welfare, scuola, giustizia, enti locali e piccole e medie imprese. Questa, insomma, esce confermata la linea del rigore del ministro Tremonti. Tra l'altro sta andando in scena anche ieri, insomma, quella che viene definito il confronto, lo scontro, le rivalità tra Tremonti e Brunetta. Un mese ad alta tensione, si legge a pagina 4 del Sole 24 Ore, i vari punti che hanno messo in divergenza i due ministri sul posto fisso, sulla carta dei doveri, sul potere di veto del tesoro. Ieri c'è stata l'economista sì, economista no, con Brunetta che ha detto l'economista sono io. E poi il portavoce che è arrivato a precisare, insomma, Brunetta ha una cattedra di economista, Tremonti una cattedra di giurista, quindi niente di strano. Però insomma, che ci sia un po' di tensione tra i due, anche Libero lo conferma. Brunetta giù duro, sono io l'economista, non Tremonti. Nuovo assalto del ministro ai tagli imposti da Via 20 Settembre, sono più rigorista di lui, dobbiamo creare sviluppo, ne discuteremo domani. Silenzio di Giulio. Infatti Tremonti non parla, anche se abbondano in retroscena. Per esempio a pagina 3 di Repubblica il superministro striglia i colleghi. Il superministro è Tremonti. È già un miracolo se non alzo le tasse. Taglio dell'IRAP, aumento delle detrazioni IRPEF, scrive Francesco Bei. Ragazzi, non so se è chiaro, quest'anno è già un miracolo se non alziamo le tasse. Questo sarebbe il retroscena di Repubblica. Repubblica che mette anche un'intervista al leader della CGIL Guglielmo Epifani, che lancia la sua proposta: più imposte su bot e rendite per aiutare i cassa integrati e i disoccupati. Partiamo dagli ammortizzatori, dice Epifani in questa intervista. Si può raddoppiare la durata dell'indennità di disoccupazione? Poi bisogna estendere l'una tantum ai precari che perdono il lavoro. Secondo le nostre stime sono riusciti a ottenerla solo un migliaio di persone contro decine di migliaia che non lavorano più. Terzo, la cassa integrazione va aumentato al massimale, dice Epifani. E poi, insomma, l'annosa questione sulla tassazione delle rendite finanziarie, anche dei bot. Ma sì, certo, dice Epifani, perché un deposito bancario deve essere tassato al 27 e un titolo pubblico al 12? È ora di dirlo, non dobbiamo avere paura. Lo ha fatto anche Zapatero in Spagna. Insomma, che ci sia la rivalità tra Brunetta e Tremonti lo testimonia anche la Stampa, che è di fronte a pagina 7, l'anti-Giulio scatenato, non sei un economista, rivolto a Tremonti, intervista chi? Rino Formica. Rino Formica è colui che in altri tempi diede della comare a Beniamino Andreatta. E l'ex ministro socialista intervistato da Jacopo Iacoboni dice: ma allora c'era humor, c'era ironia, non scappavano mai espressioni volgari. Ho letto sempre che oggi tra i due ministri protagonisti della lite odierna è suonata financo la frase «non ti avvicinare altrimenti ti prendo a calci nel». Ed è quello che avrebbe detto Tremonti a Brunetta dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri. Una cosa così ai tempi di Spadolini e Bettino era impensabile. Sì, ma lei diede della comare ad Andreatta, appunto. E dice Formica: beh, ma guardi, proprio la mattina che prima di formulare quella battuta pepata sulla comare andammo a colazione insieme da un comune amico. Insomma, oggi cosa invece vuole che ci sia di politico? La forza di Tremonti che rappresenta una linea che non può cambiare pena l'incrinatura della politica stessa del governo. Insomma, tensioni tra i ministri economici, prettamente economici, sono sempre state, ma Formica dice allora erano altri tempi, ma certo ricorda quando diedi della comare a Nino Andreatta. Insomma, abbandoniamo l'economia per ritrovare l'altro grande tema che ormai ci accompagnerà, quello della giustizia e anche della mafia. Oggi ci sono molti sviluppi. Beh, giustizia intanto sul processo breve, ma non solo, parla il ministro Alfano, intervistato dal Corriere della Sera, Dino Martirano. Alfano sul processo breve andrebbe avanti fino in fondo. Parte però dalle accuse delle procure, delle voci che parlano di, ieri il giornale diceva arriva l'avviso di garanzia a Berlusconi per concorso esterno in associazione mafiosa. Dice Alfano: le uniche notizie sono quelle veicolate dagli organi di informazione, una specie di romanzo a puntate continuamente alimentato da fughe di notizie. L'ipotesi comunque mi sembra fantascientifica. Sulla domanda se allo studio una legge che sganci l'articolo del concorso dal reato di associazione mafiosa, la risposta è un no categorico, dice Alfano. E poi sul processo breve, l'ANM denuncia la desertificazione delle procure al sud. Le procure sono scoperte, risponde il ministro, perché i magistrati non vogliono andarci e nessun organismo in Italia può costringere un magistrato ad andare in quegli uffici. Confermo poi le stime su quelli che sarebbero i procedimenti saltati col processo breve, è l'1% rispetto a 3.300.000 procedimenti pendenti. Confermo questa stima, si tratta di un metodo trasparente che offrirò alla Commissione nonostante il CSM dia cifre ben più alte. Insomma, la vicenda della mafia è una vicenda che, ripeto, ce la porteremo avanti, avete sentito, settimana prossima sarà quella chiave in cui questo pentito Gaspare Spatuzza parlerà il 4 dicembre, deporrà al processo in cui è imputato d'appello, in cui è imputato il senatore Dell'Utri. Schifani, querela Spatuzza. Trovate oggi sui vari giornali, da qui leggo dal Corriere. Infanga la mia dignità. Perché? Perché questo Gaspare Spatuzza, colui che era l'uomo, il killer dei Graviano, boss di Brancaccio, ha detto, il pentito di mafia Spatuzza ricorda di aver visto all'inizio degli anni 90 il boss Filippo Graviano incontrare il presidente del Senato Renato Schifani. Sono indignato e addolorato, commenta Schifani. Denuncerò con determinazione e fermezza chiunque, come il signor Spatuzza, intende infangare la mia dignità umana e professionale con calunnie, insinuazioni inaccettabili. Tra l'altro Giovanni Bianconi, a pagina 6 del Corriere, rievoca quelli che sono gli 8 verbali del pentito a Firenze con tutti i nomi soprattutto di Berlusconi e Dell'Utri, tanto che il Fatto Quotidiano ci apre, è in prima pagina, Schifani e il boss delle stragi. Un pentito parla di incontri con Graviano, ma lui continua a guidare il Senato. E c'è anche un fondo di Antonio Padellaro, il direttore, in prima pagina, in cui dice: ma è un paese normale quello nel quale la casta dei parlamentari si autoassolve regolarmente anche di fronte alle accuse più gravi e infamanti? E mette insieme anche la vicenda di Cosentino, sottosegretario, per il quale la giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha dato il suo primo no alla richiesta di arresto. Su questa vicenda continua sul Foglio l'analisi di quello che è la proposta, l'abbiamo detta qualche giorno fa, Giuliano Ferrara ha detto questa associazione, concorso esterno in associazione mafiosa è un qualcosa che non esiste nel codice penale, è un qualcosa che è stato stabilito negli anni dalle procure, mostri giuridici, anche dopo ieri che c'era un docente di diritto penale, oggi un altro penalista, Giovanni Flora, professore di diritto penale, presidente della Camera Penale di Firenze, dice: La variante di stampo mafioso, l'articolo 416 bis del codice penale, è un'invenzione tutta italiana, di cui ad esempio il sottosegretario Mantovano dice che bisogna essere fieri, perché è uno strumento insostituibile anche alla lotta alla criminalità organizzata. E invece viene definito da questo penalista un mostro giuridico. Che sia una settimana molto molto intensa, sentite, lo ribadisce il giornale. Il giornale: assalto finale al Premier in 4 giorni. Laura Cesaretti scrive che sarà la prossima settimana quella cruciale. 1 dicembre, martedì, la Corte d'Appello di Milano deciderà in via definitiva se sostanzialmente la Fininvest dovrà dare sull'unghia i 750 milioni di euro di risarcimento per la vicenda Lodo Mondadori a Carlo De Benedetti. Poi il 3 dicembre, giovedì, e dunque il giornale dice è il Santoro Day, cioè anno zero, figuratevi se non farà una trasmissione sulle vicende giudiziarie del Premier. Poi c'è il clou, il 4 dicembre la deposizione di Spatuzza, e il 5 dicembre c'è il Nobi Day, appunto la manifestazione a Roma. Ma come abbiamo sentito anche il GR24, il giornale anticipa quello che sarebbe il nuovo Lodo. Lo mette in prima pagina: ecco il nuovo Lodo che salverà Berlusconi dai PM. Una proposta di legge di un solo articolo firmata da Micaela Biancofiore e Isabella Bertolini, sono due deputate del PDL, che propone sostanzialmente il legittimo impedimento a partecipare alle udienze per l'esercizio della funzione di governo, che non vuol dire solo il Consiglio dei Ministri o le sedute in Parlamento, ma altre anche compiti di rappresentanza. Così il Premier e i Ministri saranno al riparo da qualsiasi interferenza del potere giudiziario su quello esecutivo. Questo, secondo il giornale, sarebbe allo studio. Insomma, abbiamo sentito che sul tema giustizia, sul tema le accuse di mafia in arrivo, sicuramente la settimana prossima sarà una settimana incandescente. In primo piano, Veronica ha chiesti 3 milioni e mezzo al mese. Questa è una notizia che ha solo il Corriere della Sera, e parla della causa di divorzio tra il Premier e Veronica Lario. Una cosa è certa, scrive Federico De Rosa, le cifre in gioco nella separazione tra Veronica e Silvio Berlusconi sono sicuramente rilevanti. Secondo fonti bene informate, la moglie del Premier avrebbe presentato una richiesta di, udite udite, 43 milioni di euro l'anno, ossia poco più di 3 milioni e mezzo al mese come assegno di mantenimento. Questo per mantenere il tenore di vita precedente alla decisione della separazione. Sempre secondo fonti bene informate per il Corriere della Sera, la controfferta di Berlusconi, che giudica esorbitante questa cifra, sarebbe stata di circa 200.000 euro mensili, con la possibilità di arrivare a 300.000 euro. Ovviamente l'avvocato di Veronica Lario precisa non dichiara nulla alla stampa, insomma forse ci saranno smentite, ma questo è quello che trovate sul Corriere della Sera, come continuerete a trovare notizie sulla vicenda della morte di Brenda, la transessuale Brenda. Salvati 80.000 file dal PC di Brenda, leggo dal Sole 24 Ore. Il caso Marrazzo, verifiche in corso anche sui cellulari dei carabinieri indagati per recuperare foto e video. Il Sole 24 Ore ricostruisce tutti i protagonisti, le tappe della vicenda. Questa è la nuova svolta, cioè che dal computer di Brenda ci sarebbero 80.000 file, qualcuno dice 61.000 come Libero, ma insomma comunque una memoria molto molto corposa di file. E Libero che dice: ecco le telefonate dei VIP in questura, e ci sono persone allarmate che chiamano i loro amici poliziotti a chiedere: c'è per caso un video con me? Qualcuno dice: in arrivo un nuovo scandalo, nuovi nomi. Il Corriere della Sera intervista Giorgio T, 41 anni, singolarmente ne viene pubblicata la foto ma non ne viene messo il cognome. Ex spacciatore, ex convivente della transessuale Brenda, racconta Novella 2000, un racconto che si dice va preso un po' con le pinze, anche perché il soggetto è un po' così definito borderline, ma dice: ci sono molti avvocati, medici, commercialisti, alcuni politici, nomi noti insomma tra i clienti di Brenda. La notizia, diciamo, nuova sul caso Marrazzo la pubblica Repubblica, secondo la quale, secondo Orazio La Rocca, Marrazzo avrebbe scritto direttamente al Santo Padre. E Marrazzo fa mia culpa col Papa, mi perdoni per ciò che ho fatto. Santità, mi perdoni per tutto quello che ho fatto. Si è rivolto direttamente alle alte sfere vaticane l'ex presidente della regione Lazio. Secondo Orazio La Rocca, appunto, ieri dal Palazzo Apostolico Vaticano è filtrata la notizia che nei giorni scorsi sul tavolo del cardinale segretario di Stato Bertone è arrivata una lettera nella quale Marrazzo implora il perdono del Santo Padre, supplicando il porporato di far arrivare a Benedetto XVI questo suo sincero desiderio. Ulteriori dettagli sul contenuto della sofferta missiva, scrive La Rocca, non sono ancora emersi, ma certo lo paragona Orazio La Rocca a Enrico IV, l'imperatore tedesco che a Canossa nel 1077 attese per 3 giorni al freddo e alla neve per chiedere a Papa Gregorio VII l'annullamento della scomunica. Ma trovate, ripeto, molto sulla vicenda Marrazzo sui vari giornali. Voglio per le segnalazioni finali andare a leggere quello che Sergio Rizzo scrive sul Corriere della Sera. Sapete che uno degli elementi più in discussione in passato sono gli arbitrati. Gli arbitrati sono le controversie sugli appalti tra Stato e imprese, cioè si fa un arbitrato invece che andare a fare una causa lunga. Si fa un arbitrato, si eleggono 3 arbitri e si dirimono le questioni appunto su tra Stato e imprese. Fatto sta che il problema degli arbitrati è che lo Stato quasi sempre perde e dunque poi dopo c'è un aumento di costo delle opere, mediamente del 30%, dice Sergio Rizzo. Ebbene, una leggina per far resuscitare il mega affare degli arbitrati sarebbe allo studio. L'arbitrato è morto, viva l'arbitrato, scrive Sergio Rizzo. Potrebbe essere titolata così l'ultima opera di Claudio Zucchelli. Chi è Claudio Zucchelli? Claudio Zucchelli è sostanzialmente il capo giurista del premier Silvio Berlusconi, che, scrive Sergio Rizzo, ha vergato una legge che approderà domani sostanzialmente in Consiglio dei Ministri, nel quale si dice che cosa? Che viene ripristinato l'arbitrato. Tra l'altro, dice Sergio Rizzo, Zucchelli conosce perfettamente la materia, se non altro perché è stato arbitro fino all'altro ieri. Nel 2008 ha fatto parte, per esempio, di un collegio arbitrale di 3 persone incaricato di dirimere una lite tra la Staldi e l'ANAS, insieme al giurista Berardino Libonati e all'avvocato Giuseppe Consolo, un arbitrato da 38 milioni di euro con un compenso del collegio di poco principesco, 1.455.000 euro. Ebbene, questa legge che per esempio Antonio Di Pietro avrebbe voluto seppellire già da un paio d'anni questi arbitrati, ma ad abrogare l'abrogazione, scrive Sergio Rizzo, appare appunto questa nuova legge vergata da Claudio Zucchelli, che approderebbe domani al Consiglio dei Ministri. Ci fermiamo qui, segnalando solo che sulla questione pausa pranzo c'è ancora molto. La pausa pranzo degli onorevoli costa, leggo dal giornale, 10 milioni di euro. Questo è quello che viene speso alla buvette, i servizi di ristorazione di Camera e Senato. Una decina di milioni d'euro l'anno, 20 miliardi delle vecchie lire. Troverete sul giornale foto di La Russa, Bersani, Nicola Mancino, Mario Baldassarri, tutti mentre si affogano tra un cappuccio, un gelato, un panino, un tramezzino. Di questo parliamo, la pausa pranzo. Voi la saltereste per tornare a casa un'ora prima dal lavoro oppure no? È il nostro sondaggio, votate su radio24.it. Eccoci qui, sono le 8:18 minuti con 24 mattino con l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ciao Alessandro, buongiorno, stai bene? Ecco. Vedo un po' acciaccatino stamattina, dai. Diciamo acciaccato, per usare un eufemismo, evviva. Allora, di che parliamo oggi? Parliamo ancora una volta di bambini, lo sai che è un tema che mi piace, pur non avendo figli, ma io penso sempre ai tuoi. O pensi al tuo futuro? Cioè. Penso al mio futuro, ma ormai non so se ne faccio. Allora, sì, abbiamo un po'... Non dire così. Non dico, l'età è quello che è, cioè, voglio dire, l'orologio biologico ha una sua ragione, non è che me lo sono inventato io. Detto questo, c'era questa notizia sui giornali e magari qualcuno è sfuggita, qualche mamma e a qualche papà. Allora noi questa mattina abbiamo voluto rafforzare un po' le indicazioni che vanno date a tutti coloro che sono in procinto di farsi fare il passaporto. Dovete adesso stare attenti ad un fatto, e cioè al fatto che l'Italia da ieri si è adeguata alla disciplina comunitaria del Parlamento e del Consiglio europeo, che si sintetizza nel principio una persona, un passaporto, cosa vuol dire che di fatto anche i minori da zero alla maggiore età dovranno disporre del proprio passaporto, naturalmente in caso di viaggio che questo che lo richiede. Allora, come ci dobbiamo adeguare a questa novità? Stamattina ne parliamo, ci fa un po' il vademecum, tutte le istruzioni del caso ce le fornisce stamattina la dottoressa Milena D'Arienzo, primo dirigente della Polizia di Stato. Dottoressa, buongiorno. Buona giornata a tutti. Allora, intanto spieghiamo un po', per chi volesse andare ad informarsi un po' di più, qual è l'origine legislativa di questa novità. Allora, il Parlamento europeo nel maggio del 2009 ha emanato un regolamento che prevede proprio il principio di cui parlavamo prima, una persona, un passaporto. Il passaporto e i dati biometrici attualmente presenti nel passaporto dell'adulto riguardano soltanto il titolare del documento, quindi un bambino che fosse iscritto sul passaporto elettronico del genitore non avrebbe i dati contenuti nel microchip. E a protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri è stato dal Parlamento europeo sancito questo principio a cui l'Italia si è già adeguata a decorrere da ieri. Ecco, infatti, con quale norma? Perché mi sembra che sia il decreto 135, giusto? Esatto, esattamente. È un primo emendamento al decreto durante la conversione in legge, dopodiché verrà emanata a breve la nuova legge sui passaporti che proprio riorganizza tutta quanta la materia, recependo in una maniera più organica tutto quello di cui si è parlato in questo periodo, passaporti biometrici, passaporti per minori, eccetera, eccetera. Allora, non sarà più possibile scrivere i minori sul passaporto del genitore, tutore o altra persona delegata ad accompagnarli, quindi tutti i minori devono essere muniti di passaporto individuale. E però, dottoressa D'Arienzo, è chiaro che un bambino di 3 anni non porta il documento con sé, se l'obiettivo è anche quello della protezione dei bambini che attraversano le frontiere, in sostanza come si concretizzerà tutto questo, visto che in ogni caso sarà sempre comunque un adulto il depositario poi del documento. Infatti, nell'emendamento che è previsto nel decreto di cui parlavamo prima, contenuto, è previsto che tutti i minori fino a 14 anni devono viaggiare accompagnati da un adulto. Da un adulto che può essere, come dicevamo lei, il genitore, come diceva lei, il genitore o il tutore, o comunque una persona che abbia una dichiarazione autenticata dalla questura che rilascia i passaporti per poter viaggiare accompagnati con questa terzo estraneo, diciamo così, che non ha rapporti né di parentela né di altro genere. Allora, la validità temporale del nuovo passaporto, quello per i minori, per l'appunto varia, se non sbaglio, a seconda dell'età. Varia a seconda dell'età perché? Perché, come voi sapete, cambiano le caratteristiche proprio morfologiche del soggetto, per cui da 0 a 3 anni il passaporto individuale del minore ha validità di soli 3 anni, da 3 a 18 anni ha validità di 5 anni e sopra i 18 anni oramai siamo adulti e quindi abbiamo un passaporto valido 10 anni. Che è insomma la modalità che conosciamo tutti quanti. Che la modalità che conosciamo bene, non si rinnovano più i passaporti, nel senso che scaduti debbono essere completamente rifatti proprio per avere questa fotografia sempre aggiornata e consentire alle frontiere un controllo del minore che viaggia accompagnato. Tenga presente che attualmente il minore iscritto sul passaporto del genitore fino a 10 anni non c'è neanche la fotografia. Quindi questo rende molto difficoltoso identificare il bambino con effettivamente nel rapporto di parentela con la persona che lo accompagna. No, infatti conosciamo anche per esempio tutti i casi crescenti, i fenomeni della sottrazione indebita di minorenni, anche tratti internazionali, per andare a parlare proprio di problemi anche più seri, per cui è chiaro che tutto questo, come dire, vuole portare proprio ad una maggior tutela del minore. Esatto, è proprio una garanzia di sicurezza, non soltanto collegata al viaggio, proprio collegata alla tutela dei minori. Dottoressa D'Arienzo, da quando, andando in aeroporto, si dovrà esibire il passaporto individuale per i minori? Allora, ovviamente la disciplina entra in vigore con situazioni differenziate. Se qualche genitore ha già il minore iscritto, esatto, ed ha un passaporto regolarmente valido, ovviamente questo passaporto resta tale, per cui può continuare a viaggiare con il minore iscritto sotto i 10 anni senza la fotografia e sopra i 10 anni fino a 16 anni con la fotografia apposta. Tenga presente una cosa, che qualora ci sia un passaporto in corso di validità di un genitore senza la fotografia, perché è stato fatto prima che il bambino compisse 10 anni, presentandosi in questura gli si appone la fotografia e non è necessario il passaporto individuale. Il passaporto ex novo, diciamo. Ho presentato domanda da ieri, 25 novembre, deve avere il passaporto individuale. Tutti coloro che avessero richiesto l'iscrizione dei minori prima del 25 di novembre, invece, tutte le loro pratiche saranno regolarmente evase. Non sarà necessario avere il passaporto individuale per minori. Fino al 15 dicembre tutte le pratiche verranno evase. Dopodiché la procedura elettronica viene disattivata e non c'è più niente da fare. Ho letto una nota diramata dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove si precisa che restano valide tutte le disposizioni relative al passaporto collettivo e al lasciapassare per minori. Cosa vuol dire questo? Significa che non è obbligatorio avere il passaporto individuale se per esempio nostro figlio viaggia con una scolaresca e c'è un adulto che può assumere in carico, su autorizzazione di tutti i genitori, tutti gli altri minori che viaggiano, perché esiste il passaporto collettivo e quindi basta che ci sia un titolare che abbia il passaporto a norma e tutti gli altri vengono affidati e caricati, tra virgolette, con un documento cartaceo su quel passaporto, così come è valido il lasciapassare per minori, cioè quel documento che consente di viaggiare nell'ambito dei paesi che hanno firmato un accordo e una convenzione tra stati senza bisogno del passaporto. Ancora una cosa voglio precisare, il nuovo passaporto è un passaporto che può essere fatto valido anche solo per l'Unione Europea, per cui per ragazzi per esempio di 15-16 anni che devono viaggiare soltanto per fini scolastici, potremmo abbinare la garanzia di viaggiare con un documento che ha garanzia di sicurezza ed è accettato nell'ambito europeo ma anche internazionalmente, e possiamo fare un documento valido solo per l'Unione Europea senza pagare la tassa di concessione governativa, che è quella che ammonta a 40,29 euro. Benissimo. Senta, invece complessivamente il costo del nuovo passaporto è diverso quello per i minori rispetto a quello tradizionale che fanno gli adulti? No, assolutamente, è un passaporto con microchip a tutti gli effetti, in cui per minori sotto i 12 anni nel microchip è contenuta soltanto la fotografia e i dati anagrafici, sopra i 12 anni e in quelle città che già rilasciano il passaporto biometrico con impronta digitale c'è anche l'impronta digitale del minore, quindi essendo un passaporto regolare allo stesso prezzo di quello dell'adulto, sono 44,66 euro il costo del libretto e 40,29 euro la marca di concessione, che viene pagata al rilascio, ma che poi, come le dicevo, va messa soltanto se si viaggia e soltanto per paesi extraeuropei. Due secondi, dottoressa D'Arienzo, per dire a mamma e papà in ascolto, a quelli che vogliono fare appunto il passaporto per il loro piccolo, dove possono informarsi, insomma, come serati? È ovvio, possono trovare tutte le informazioni che ho detto, compresi anche i moduli scaricabili e compilabili, sul sito della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it. La ringrazio, buona giornata, presto, buon lavoro con tutta questa novità. Alessandro. Allora, volevo fare la revisione della caldaia. Oggi ci sono delle novità dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle tempistiche, la farò, ma abbiamo chiamato anche le Poste Italiane per farci fare il punto della situazione su questo caos che si è consumato ieri con questi addebiti gonfiati sui conti posta, Matte, quindi per vedere a che punto è la situazione. Alle 8.34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Niente taglio dell'IRAP e dell'IRPEF, niente cedolare secca sugli affitti, in finanziaria prevale la linea del rigore di Tremonti. Intanto il presidente della Camera Fini avverte no a un'eventuale fiducia su un maxi emendamento confezionato in extremis. Il pentito di mafia Gaspare Spatuzza chiama in causa il presidente del Senato Schifani, dicendo di averlo visto nei primi anni 90 incontrare il boss Filippo Graviani. Schifani si dice indignato e addolorato e annuncia querela. Intanto ieri dalla Camera primo no all'arresto del sottosegretario Cosentino, accusato di essere vicino ai casalesi. Non sarà un pentito a fermarmi, dice Cosentino. Il regista Roman Polanski è uscito dal carcere svizzero dove era detenuto da settembre, deve rispondere dello stupro di una minorenne avvenuto negli Stati Uniti 30 anni fa. Polanski per la libertà ha pagato una cauzione di circa 3 milioni di euro. Infine per il calcio, la Juventus perde 2-0 a Bordeaux, mentre il Milan non va oltre l'1-1 in casa col Marsiglia in Champions League. Ora per entrambe le squadre la qualificazione si gioca nell'ultima partita del girone. E allora, pausa pranzo sì o no? E questo è il tema del nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o negro. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. La domanda che vi facciamo è: ma voi la saltereste questa benedetta pausa pranzo per tornare a casa un'ora prima dal lavoro? Dovete votare su radio24.it. bisogna dire che per il momento siete divisi, il 52% dice di no, ma insomma più o meno, ecco, spaccati a metà. Saluto il ministro Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma. Buongiorno ministro. Salve, buongiorno. Colui che ha scatenato questo dibattito vivace sulla pausa pranzo, io mi vorrei accertare che lei abbia fatto una colazione abbondante oggi. Immagino ma di sì. Ma le dirò che chi salta il pranzo deve farla, no? Infatti, no, per ma, questo, perché arriverà sera e quindi... Ma il dibattito non è una cosa cattiva, perché, vede, ci può essere anche chi dice ma questo è matto, non ci vuole far mangiare più, ma in realtà io ho posto un problema diverso che voi nella domanda ponete in modo corretto. Non ho mai detto aboliamo la pausa pranzo, ma rendiamola facoltativa, in un'ottica di tendenza all'orario di lavoro individuale, come si fa già in tante aziende che pensano di dare benessere al lavoratore e quindi di aumentarne la produttività. Cioè sogno un rapporto di lavoro nel quale la flessibilità sia anche dalla parte del lavoratore, che contratta, fermi i minimi garantiti, il suo stipendio, orari di lavoro cuciti a misura delle sue esigenze individuali, comprese quelle della famiglia. E assicuro che in molte aziende già avviene, ma avviene anche in molte amministrazioni. Per esempio, nei limiti del rispetto della legge, nel mio ministero io ho concesso una flessibilità rispetto alla pausa pranzo. Quindi voglio dire, non è che non vi siano nelle realtà situazioni già diverse tra di loro che superano la fissità normativa. Quindi lungi da me l'idea di abolire la pausa pranzo, ma la mia spinta è verso una flessibilità. Cioè, da lei, dal ministero, chi vuole la fa, chi vuole può anche saltarla e torna a casa un'ora prima? C'è comunque una, non un'ora prima, ma certamente c'è un beach che si timbra quando si va in pausa pranzo, poi si ritorna e si ritimbra, cioè si rimette il beach, e se è stato di 20 minuti l'accorciamento è di 20 minuti certo. Molte persone più o meno fanno così, che non significa che da me si lavora un'ora in più, ma si lavora 40 minuti in meno. Del resto, se lei ricorda, una volta negli uffici pubblici si cominciava alle 8 e si finiva alle 2, anche allora c'era la pausa pranzo, ma era in famiglia, magari un po' più tardi, con i figli, a casa propria. Poi, da quando non si è più lavorato di sabato, le cose sono cambiate. Ma tutto sommato, questa introduzione della pausa pranzo fuori casa è un fenomeno che è cresciuto negli ultimi anni e che fa ancora diversa l'Italia. Per esempio, noi abbiamo fatto un sondaggio a mie spese, sottolineo, e non del governo. Sì. E un sondaggio dice che il 58% degli italiani è d'accordo con me, cioè la vuole facoltativa, vuole scegliere. Però ci sono delle differenze. Ad esempio, un giornale di Varese ha fatto un sondaggio analogo e il 90% a Varese la pensa all'opposto rispetto a me, perché Varese è piccola e quindi pausa pranzo significa tornare a casa. Ma Roma, pausa pranzo significa stare fuori un'ora in più e per giunta mangiare così come capita. Però c'è chi dice si socializza, si vive veramente, si sta insieme, si parla col collega, si parla ma di guardi, qualcosa di diverso. Premesso che il lavoro quasi sempre è di team, quindi pur lavorando la socializzazione avviene anche durante il lavoro, guai se pensassimo al lavoro come una cosa che aliena per 8 ore, dovremmo proprio, non c'è pausa pranzo che ci salva se la pensiamo così. Ma fatta questa premessa, io penso che più che di socializzare, oggi c'è bisogno di un ritorno alla famiglia, c'è bisogno di tempo per la vita. Quindi non faccio solo una questione di pausa pranzo, ci sono lavori che debbono essere fatti in ufficio, ci mancherebbe, chi sta in banca deve rispondere al cliente, ma ci sono tantissimi lavori che consentono minimamente un po' di flessibilità di orario. E penso che nell'organizzazione del lavoro, quindi la mia non è, come si è detto, una provocazione solo verso la produttività, ma verso la qualità della vita e verso soprattutto più tempo in famiglia. Più è tempo un in bisogno famiglia. Della famiglia di recuperare spazio. Allora, la sta ascoltando, voglio salutare il senatore Pietro Ichino, buongiorno, del Partito Democratico, giuslavorista. Insomma, ha ascoltato il ministro Rotondi che ha preceduto. Ha detto non ci vuole togliere cibo da bocca, per carità. Lei la pausa pranzo la fa, senatore? Perché adesso sembra che l'Italia si divida tra chi fa la colazione e mangia a sera e chi invece mangia, lei mangia regolarmente? Diciamo che in Senato ci sono giorni abbastanza diversi gli uni dagli altri, c'è il giorno in cui si riesce a rosicchiare 20 minuti per un panino o un toast, e giorni in cui invece c'è più spazio tempo, per la pausa pranzo. Ma a me sembra che queste questioni importanti come la materia dell'orario di lavoro meriterebbero di essere affrontate in modo un pochino più organico, che non con queste uscite estemporanee e anche un po' mal istruite dal punto di vista istituzionale, perché il ministro Rotondi avrebbe fatto bene per prima cosa prendere atto che c'è una direttiva europea che per la tutela della salute dei lavoratori e l'igiene del lavoro stabilisce che quando il lavoro dura più di 6 ore continuativamente è obbligatoria una pausa, che poi potrà anche essere del quarto d'ora o dei 20 minuti, ma una pausa è obbligatoria non solo per il nutrirsi, anche per rompere la tensione e lo stress da lavoro dove può esserci. Ora, detto questo, già abbiamo corretto drasticamente la prima uscita del ministro Rotondi, che invece ha proprio parlato di abolire la pausa pranzo, poi adesso dice no, ma io voglio soltanto renderla facoltativa. Ma allora perché in prima battuta ha parlato di abolire? In questo modo si creano allarmi, si dà l'impressione di una politica fatta un po' di annunci estemporanei, questo non giova a un dibattito sereno. Rendere facoltativa la pausa pranzo, ma dunque innanzitutto sì, certo bisogna andare, e nella maggior parte dei casi si può andare in direzione di una autogestione del tempo di lavoro. E per esempio quello che ci ha raccontato adesso il ministro del suo ministero è la direzione giusta, cioè quella di applicare quello che si chiama il flexi time, cioè un orario in cui ciascuno ha degli spazi di elasticità, per esempio può decidere se sospendere 20 minuti o sospendere per un'ora per il pranzo, ma la stessa elasticità si può dare anche in fase di entrata e di uscita al lavoro, all'inizio e alla fine della giornata, e questo è sicuramente un fatto molto positivo. Più si va in questa direzione e più l'intreccio fra tempo di vita e tempo di lavoro, tempo di cura familiare e tempo di lavoro professionale si modula, riescono a conciliarsi più facilmente. Però anche questi temi sono temi complessi che hanno tanti risvolti che andrebbero affrontati organicamente, adesso tenendo conto di tutte le componenti e anche distinguendo, perché è diverso parlare del lavoro in un ministero, un lavoro d'ufficio, e parlare invece del lavoro in una fonderia o in una fabbrica di automobili. Ci sono muratori che ci hanno scritto e dice provate a togliermi la pausa pranzo, a me muratore, poi ma questo poi magari dal ministro Rotondi vediamo. Io intanto voglio salutare anche Pietro Fontanini, buongiorno. Che presiede la provincia di Udine della Lega, segretario tra l'altro del Friuli Venezia Giulia. Ma è vero che lei invece cos'è, una controprovocazione, cioè ha detto noi l'aumentiamo da mezz'ora a un'ora la pausa? Sì, perché io nei miei uffici qui della provincia di Udine ho trovato un'articolazione dell'orario di lavoro. Ci sono due giornate in cui i dipendenti della provincia di Udine lavorano 9 ore e hanno una pausa pranzo di mezz'ora. Io ritengo che questo spazio così di pausa pranzo sia troppo breve. E propongo, anzi sto già organizzando un incontro con le organizzazioni sindacali, di portarla ad un'ora, perché ritengo che quando si lavora 9 ore aumentare questo momento di pausa per una corretta anche alimentazione. Mezz'ora che fa uno si ingozza. Arriva proprio col boccone ancora in bocca, no? Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, rinuncereste a questa pausa pranzo per tornare a casa un'ora prima? Per ora il 53% di voi dice di no. Siate brevi, cari ascoltatori, se ve ne do un paio. Corrado da Treviso, buongiorno, che dice? Buongiorno, io sono a favore della flessibilità sulla pausa pranzo. E perché? Ma perché credo che ci siano molte donne che per esempio hanno problemi di andare a prendere un bambino all'asilo nido e sono magari un po' costrette a fare tardi perché si sono fermate di più al lavoro e non hanno interesse o voglia di perdere tempo per fare la pausa pranzo. Io ho lavorato per molto tempo all'estero, da molto tempo, ancora 10-15 anni fa era normale avere la flessibilità, uno decideva, come diceva il ministro Rotondi prima, e poteva diciamo anticipare l'uscita, addirittura se arrivava un'ora prima al lavoro guadagnava sia la pausa pranzo che l'ora recuperata. Sì, quindi, sì, diciamo, sì, insomma, per la flessibilità. Grazie Corrado. Giancarlo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Milan. Senta, io penso che Rotondi, visto che lui dice che sono 20 anni che fa che non fa la pausa pranzo, probabilmente gli ha già procurato qualche danno. Mia figlia, che lavora in un'azienda milanese, il suo principale gli proibisce di tenere la bottiglietta dell'acqua sulla scrivania perché non vuole che la scrivania diventi un tavolo da ristorante. Che è un dittatore, insomma. Siamo più o meno a quel livello lì. Beh, ma è un altro problema, cioè è un problema sì, quasi da mobbing, vabbè. Non lo so. No, vabbè. Però io dico, tutte le norme alimentari dicono che bisogna mangiare poco e spesso, il ministro Rotondi mangia poco probabilmente o tanto, ma distanziato nel tempo probabilmente gli ha fatto qualche danno. Vabbè, adesso il ministro Rotondi vuole rispondere all'ascoltatore. Ma guardi, non ho difficoltà a rassicurare l'ascoltatore, io mangio poco e spesso. E assolutamente non è che saltare il pranzo significa non prendere nulla, significa nutrirsi con piccoli spuntini appunto ravvicinati e magari poi mangiare in famiglia la sera quando finita la giornata. Ma questo non significa un cattivo rapporto col cibo, al contrario buono, perché quando uno ha alle spalle i pensieri si concentra anche su quel che mangia. Detto questo, il mio pensiero, non lo dico in modo ruffiano, è riassunto dalle cose che ha detto il professor Ichino, perché la falsa partenza del dibattito non necessita una mia smentita, perché io non ho mai detto che volevo abolire la pausa pranzo, solo che si dà il caso che questo dibattito non è nato da una proposta di legge, ma da una intervista come questa, fatta ad un giornalista che ha dato alle agenzie il mio pensiero, e il titolo è delle agenzie, perché il mio pensiero è stato detto con le stesse parole di stamattina. Solo che dice, io non ho mai detto aboliamo la pausa pranzo. Non ho mai detto abolirò la pausa pranzo o voglio abolirla, ho detto io personalmente l'ho abolita nella mia vita e consiglio ai lavoratori la possibilità di scegliere. Scegliere che significa? Che è chiaro che il muratore la fa, ma aggiungo che pure il muratore può decidere di farla in mezz'ora anziché in un'ora, e purtroppo devo dire, nel caso di un lavoro usurante come quello del muratore, non dappertutto questa pausa viene rispettata, quindi c'è anche il caso opposto di pause pranzo che andrebbero fatte e purtroppo non vengono fatte. Tra l'altro, oggi è una leggo, materia complessa, ragione il professor Ichino. Tra l'altro, il professor Ichino, che è uno molto attento sempre ai costi della politica, da quando anche è in Senato. Professore, oggi leggo su Il Giornale: la pausa pranzo degli onorevoli, vale a dire le spese di ristorazione del Parlamento, sono 10 milioni di euro l'anno. Professore, direi che non è un tema che riguarda la pausa pranzo, le spese di manutenzione delle bivette, ristoranti, il self service, non riguardano soltanto i parlamentari ma anche tutto lo staff. Comunque è possibile che ci siano dei margini di riduzione, così come anche dei margini di aumento del contributo che si chiede ai parlamentari per consumare il pasto al Palazzo Madama o a Montecitorio, Oggi a Palazzo Madama il pasto costa circa 8, 9, 10 euro, potrebbe anche aumentare questo contributo, non credo che però questo inciderebbe molto sulla spesa totale. Ma per tornare alla questione, mi sembra che quest'ultimo intervento del Ministro Rotondi abbia riportato il discorso alla sostanza con una conclusione ragionevole, e cioè io direi... Innanzitutto distinguiamo il problema della norma generale di protezione del lavoro, che è una cosa, e l'altro è il problema di che cosa è meglio fare nei singoli casi da parte del lavoratore che deve poter avere un largo margine di scelta quanto più è possibile, perché ci sono situazioni in cui questo margine di scelta non è possibile darglielo. A un ferroviere o a un lavoratore che lavora alla catena di montaggio non si può dare la stessa flessibilità di orario che si può dare a un impiegato. Allora, quando il lavoro è quello, come quello per esempio appunto di un ferroviere o di un lavoratore alla catena di montaggio, lì una norma che garantisca la necessaria possibilità di interruzione, il diritto, ma anche in qualche misura una norma inderogabile per la tutela anche dei viaggiatori, per esempio, questo mi sembra che sia una regola giusta e che non possa essere eliminata. Certo, dove invece il lavoratore ha una notevole libertà anche nell'organizzazione dei tempi interni della prestazione, un impiegato che può anche sospendere non ufficialmente la sua attività per mangiare un panino, oppure mangiarlo accanto al computer rallentando il lavoro per una ventina di minuti, è una situazione molto diversa rispetto a quella dell'operaio alla catena di montaggio. Questo sì. E allora lì in quel caso si possono studiare delle alternative rispetto alla pausa rigida, e questo può soddisfare al tempo stesso i vincoli di disciplina comunitaria e l'interesse del lavoratore a una maggiore flessibilità dell'orario. Visto siccome io ho 10 secondi, volevo, Ministro Rotondi, ma davvero 10 secondi, lei ha detto è nato da un'intervista, non da una proposta concreta, ma sta studiando una proposta di legge al riguardo? Ma certamente riferirò al Consiglio dei Ministri i risultati dei sondaggi, delle lettere che mi sono arrivate, ma solo per cronaca, non tocca a me farlo. Voglio aggiungere una cosa, che io non sono un demagogo, ma se ho proposto di abolire i ristoranti della Camera è solo perché nei 3 giorni di votazione, se ci mettiamo alla pausa pranzo, succede quello che si vede, cioè che la Camera funziona soltanto per assecondare il lavoro del governo e non fa leggi, quindi mi sembra che nel caso dei deputati l'abolizione della pausa pranzo sia un'assoluta necessità. Questa è anche un'altra notizia. Grazie a tutti, il ministro Rotondi, il senatore Chino, saluto anche il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, e votate sul sito radio24.it per la pausa pranzo. Ringrazio Laura Marchesi in redazione, con Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domattina.